Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Mercoledì 14 aprile, buongiorno di nuovo a tutte e tutti che ci ascoltate sempre ogni mattina su Radio Città Fujiko e su Tele Tricolore alle 10.30, siete su Liberi Dentro ed Uradio. Buongiorno ai miei ospiti, Marco Santarelli da Milano, da Roma, scusami, buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte. E Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno. Buongiorno Caterina e buongiorno a tutti e tutte. Allora, oggi vi riporto a una notizia molto bella che riguarda il laurearsi dietro le sbarre, uno spiraglio di luce per i detenuti, a firma di Marina Di Cagno su traileoni.it. Perché negli ultimi anni sempre più atenei hanno svolto un ruolo cruciale nella promozione dello studio universitario dei detenuti. Ed è in questo modo che si realizza il cosiddetto recupero, tanto auspicato all'articolo 27 della Costituzione, della persona detenuta e il suo reinserimento sociale. Ed è una notizia che di solito non occupa le prime pagine dei giornali, questa delle lauree in carcere dei detenuti. Però un piccolo passo è stato fatto avanti già dal 2018, quando si è istituita la CNUPP, che sarebbe la Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari, che costituisce la formalizzazione del coordinamento dei responsabili dell'attività di formazione, no? universitaria in carcere. Pensate che le facoltà più gettonate sono quelle politico-sociologiche in carcere, quindi che vedono iscritto quasi un quarto dei carcerati. Poi ci sono le materie umanistiche che si aggiudicano il secondo posto, poi seguono giurisprudenza, scienze, agraria, storia, psicologia, economia, ingegneria e matematica. Però bisogna dirlo, in Italia gli studenti detenuti sono 796, sembrano tanti. Purtroppo no, si tratta solo dell'1% totale dei carcerati e quindi bisogna fare di più. A quanto pare questo è un diritto un po' fantasma, valido solo su carta. Bisogna veramente impegnarsi di più perché tutti, se hanno il desiderio di voler studiare, perché studiare apre le ali, e dopo ne parleremo con te Marco, della mente e della voglia del fare, di riscattarsi, fare di più perché si acceda a questo diritto. E io ora do la parola a te, Ignazio, sui gelati dal Cairo. Sì, continuiamo un po' la nostra carrellata sempre sull'Egitto. Le notiziole che dicono i legami tra le culture. Allora, in autunno si tiene la settimana del cibo italiano al Cairo. Due anni fa è stata dedicata all'olio e lo scorso anno è stata dedicata al gelato. Quest'anno sarà dedicata al cioccolato. E quella del gelato mi ha molto colpito quando stavo al Cairo nel 2013, proprio nel 2012, nel momento della primavera araba, si andava in un posto che si chiama Sakia, che vuol dire la cameriera che dà da bere, ad ascoltare gli egiziani che parlavano, sognavano quello che volevano fare del loro paese dopo la caduta del dittatore, eccetera. E poi dopo si andava in un posticino che vendeva gelati italiani. E quindi mi ha riportato a questa situazione in cui noi parliamo di rapporto tra i popoli come un rapporto colonialista, imperialista, arrivista, ma i popoli dialogano anche attraverso le piccole cose, come per esempio i gelati, in arabo lo chiamiamo al-busa, no? Busa è il gelato. E la presenza italiana è legata a tante cose al Cairo. Voi pensate che ci sono ancora delle professioni al Cairo, come per esempio il ciabattino, in cui tutti gli oggetti del lavoro del ciabattino hanno termini italiani, perché erano i veneti che emigravano all'inizio del secolo scorso. E ancora capita di sentire, per esempio, quando vai per il Cairo, senti gridare bicchia, bicchia, bicchia, un'altra cosa. Ti svolgi e c'è un ragazzino che spinge un carretto e che raccoglie, che cosa? Roba vecchia, dalle case, chi ha una stufa, chi una cosa. Una volta ho fermato un ragazzino, ho detto, Shuam Taref, Shuam El Kalim, sai qual è il significato di questa parola? Non lo so, ho detto, guarda che questo in italiano è roba vecchia, e quindi il ragazzino egiziano oggi raccoglie per esempio queste cose con il nome importato dagli italiani immigrati, gelato e altre cose. E cosa, che musica possiamo lanciare per spezzare la nostra mattinata? Allora, passiamo a una grande cantante egiziana, una voce femminile, Anram, che è una grande sia cantante che attrice, ha debuttato nell'87 sotto la guida di suo padre, Mohammed Suleiman, e ci canta Yareta Fahimli, se mi capisci. يا ريتك فاهمني بجد زي ما بفهمك وتقرا اللي جوايا مع عيني تبص لك يا حلمي اللي متأجل وانا هموت واحلمك يا عمري اللي ناقص عمر نفسي اكملك يا كل الكلام شفايفي بهمسه يا أمل اللي بتمنى أطوله أو ألمسه يا هوى من زمان عايشة عشان بتنفسه يا ريت أبقى آخرك في الحياة دي وأولك. E rieccoci sulle note musicali di questa cantante e anche attrice egiziana. Siamo sempre su Liberi Dentro Eduradio, ci state ascoltando su Radio Città Fujiko, su Teletricolore, e siamo al momento della nostra rubrica di Galateo Arabo, dove questa settimana abbiamo per oggetto la Costituzione egiziana. E oggi parliamo di diritto di espressione del pensiero. Esatto, che è uno dei grandi diritti naturali dell'uomo a partire dal bambino e quindi sono uno dei diritti conculcati dalle dittature. La dittatura ti dice non puoi dire quello che pensalo ma non dirlo. Ecco, non si, bisogna fingere e la dittatura è la ipocrisia, ecco, fatta sistema. Quindi si può capire che nel momento in cui cade una dittatura viene fuori un articolo come il 65 della Costituzione egiziana, Hurriyatul Fikr wa Ra'i Makfula. La libertà di pensiero e di opinione è assicurata. Wali kulli insan haq ta'bir an ra'i bil qawl wal kitab wa taswir. A ogni uomo, ogni persona umana, quindi anche donna, ogni persona umana ha il diritto di esprimere il proprio pensiero con la parola, lo scritto e il taswir. Abbiamo qua un regista, quindi anche con l'immagine. E quindi non solo il pensiero rimane nella testa, ma io lo posso esprimere. Ovviamente nel rispetto della legge agli altri. Qualcuno può dire è andata tutto al contrario di quello che è scritto lì, però intanto è stato scritto. Grazie Ignazio, e ci dai proprio l'aggancio per collegarci a Marco adesso, parlando di Dustur, che in arabo significa Costituzione, ed è il documentario che tu hai girato sulle tracce di Ignazio, qui ci sono entrambi gli attori presenti, nel 2015 al carcere della Dozza, che è ambientato un po' fra il dentro e il fuori, no? E segue il filone del corso scolastico sulla Costituzione italiana in dialogo con le primavere arabe e le tradizioni islamiche, ma anche il fuori, tenendo il conto, insomma, delle tracce di un giovane studente detenuto che poi si è laureato, Samad, e raccontaci questo film. Sì, io ho conosciuto Samad e Ignazio durante le riprese di Mille e una notte. Poi nel 2015, quando Ignazio mi ha parlato del suo. Io avevo intenzione, scusate, era da un po' che pensavo che volevo fare un lavoro con Samad da quando poi è uscito dal carcere. E l'occasione mi si è presentata quando Ignazio mi ha parlato del suo corso extrascolastico sulle Costituzioni e mi è scattata l'idea di far incontrare le due storie, ovvero le storie di Ignazio, che Ignazio raccoglieva durante le lezioni del corso in carcere e poi la vita di Samad fuori. E trovare il modo di vedere un po' la Costituzione sulla carta e la Costituzione vissuta da un ex detenuto che stava cercando di rifare una vita, no? Quanto quei diritti erano scritti, erano poi realmente nella vita delle persone, nella sua vita, no? E quindi questo muovermi dentro e fuori il carcere poi si È un movimento che si chiude alla fine del documentario con Samad che ritorna dentro per partecipare a un momento molto, il momento più bello e emozionante del corso, ovvero quando viene chiesto ai ragazzi che seguono il corso di Ignazio di scrivere una loro costituzione ideale. E a me viene l'idea di far tornare Samad dentro per portare la sua storia ai suoi ex compagni e portare il suo punto di vista dentro il carcere, insomma, da uomo libero. Aggiungo un permesso quasi incredibile, perché che un detenuto scarcerato rientri per partecipare a un corso nell'area scolastica dell'area pedagogica è un permesso straordinario, no? Sì, un permesso sono stato, diciamo, mi ritengo molto fortunato di questo, però che ha dato al documentario una marcia in più, perché poi chiude un percorso, chiude una storia che fino a quel momento era in parallelo, o nel momento in cui Samad torna dentro si riannoda tutto e si arriva al Dustur, si arriva alla Costituzione, non solo qualcosa che è scritto, non solo un'idea, non solo un pensiero, ma anche un'azione. Con la vita di Samad, Dustur diventa un'azione. Che tu ti ricordi c'è un diritto in particolare tra quelli che hanno scritto in questa carta ideale che ti ha colpito? Beh, forse quello sul rapporto tra maggioranza e minoranza, sull'importanza del dialogo tra le maggioranze e le minoranze per il bene del comune. Quello è una cosa che così è. Mi ricordo che quando lo ascoltai, letto da un detenuto, quando ascoltai il suo pensiero, il suo articolo su questo tema, mi emozionò molto, forse anche perché il detenuto che lo lesse era, mi colpì la sua passione, mi colpì quello che scrisse, quindi questo. Grazie, secondo stacco musicale di oggi dedicato da te a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Sì, un rapper marocchino che mi ha fatto conoscere Samad e si chiama Don Big. Buon ascolto a tutti. كنبارو ليكم على الميكروبات وغنوليو ميكروبات نيت نيت نيت في ضربان ولخينا المال والبان وراح كرجونا بالقانون وقدمتو علينا الملي سعبنا اللي دا بحالنا نرقو خلانا نبيعو في كل شي باش بنفوتو الحنانة Rieccovi, bentornati a Liberi Dentro Eduradio. Proseguiamo il flusso di questa nostra mattinata con la nostra nuova ospite, che in realtà conoscete già, lei è Agnese Drusiani, sempre dell'equipe sanitaria dell'ASL all'interno della Casa Circondariale di Bologna. E Agnese, con te stiamo affrontando diverse tematiche sempre sulla salute, la salute soprattutto per i cittadini ora reclusi all'interno delle carceri, e l'ultima volta abbiamo parlato dei servizi sanitari per i nuovi giunti, quindi tutto quello che viene messo in pratica quando c'è un nuovo ingresso in carcere. Ma oggi vorrei un po' capire con te, siccome siamo in argomento, si parla sempre di coronavirus, del fatto di promuovere il vaccino soprattutto per la popolazione detenuta, vorrei capire con te che cosa dipende dal comportamento dei detenuti e delle detenute nella trasmissione del virus, cioè che cosa possono fare per evitare il contagio e le buone prassi, insomma. Allora, intanto grazie, ciao Caterina e buongiorno a tutte e tutti. Allora, intanto ci tengo a dire che questo è un periodo, diciamo, abbastanza buono rispetto ad altri, anche a livello di contagi, è un momento abbastanza tranquillo e quindi paradossalmente credo che sia uno di quei momenti in cui bisogna stare un po' più attenti, perché quando siamo più spaventati mettiamo in atto tutto quello che dobbiamo mettere in atto come prevenzione. Quando siamo più tranquilli un po' ci lasciamo andare, ma questo vale direi per tutti quanti, anche al di fuori. E quindi che cosa ci dobbiamo ricordare di fare sempre? Sicuramente di indossare la mascherina. Indossare la mascherina soprattutto quando si esce dalla sezione e si entra in contatto con persone che non sono quelle con cui si vive abitualmente. Poi è chiaro che noi in periodi particolarmente intensi consigliamo sempre di tenerla anche all'interno della sezione, in realtà, perché le persone lavorano all'interno del carcere, entrano in contatto con persone. La cosa migliore sarebbe quella di tenerla sempre, tranne che quando si è all'interno della propria cella con il proprio compagno di cella. Certo. Esatto, considerato un po' come convivente in questo senso, come congiunto. Quindi sicuramente tenere la mascherina quando si viene in ambulatorio, quando si va in colloquio, quando si vedono persone esterne. L'altra cosa importante è quella dell'igiene delle mani. L'abbiamo sentito in tutti i modi, siamo venuti in sezione a farlo vedere, però quella è un passaggio molto importante. È sufficiente sempre acqua e sapone, lo sappiamo, non c'è bisogno del gel idroalcolico assolutamente, almeno per, si dice, 60 secondi, cantando possibilmente tanti auguri a te, mentre ci si lava le mani, perché il tempo è un po' quello. Certo. E anche ogni volta ovviamente che si starnutisce o si portano le mani alla bocca, agli occhi, assolutamente che prima siano state lavate e dopo lo starnuto lavarle sempre. L'ultima cosa che è molto importante e molto complicata è legata ai contatti con gli altri. Nel senso perché che è complicata? Perché è complicata? Perché tutti abbiamo voglia di entrare in relazione con le altre persone fisicamente e dopo quest'ultimo anno ci manca tantissimo, ancora più di prima. Il problema è che entrare in relazione con gli altri significa mettere a rischio la salute dell'altra persona, certo, oltre che la propria. E infatti quindi indossare la mascherina è una protezione soprattutto per l'altro. Cioè, questo ricordiamocelo sempre, per se stessi e per l'altro. Esattamente, esattamente. È una scelta di grande responsabilità comunitaria. Sono tutte scelte che oltre che per se stessi sono molto per gli altri, assolutamente. E quindi noi diciamo sempre che anche per salutarsi, quando si entra in contatto adesso, e sarebbe meglio magari darsi il gomito oppure salutarsi da lontano senza far entrare in contatto le mani, senza abbracciarsi, senza baciarsi. Sappiamo che è difficile anche per noi, ma lo devo dire, insomma, perché è molto importante. Agnese, alleggeriamo un po' con un po' di musica. Cosa lanciamo? Oggi lanciamo una canzone a proposito di aiutare gli altri. E il titolo in inglese è People Help the People di Birdie. Musica. People help the people, nothing will drag you. E rieccoci sulle note di Birdie. Adesso volevo chiederti, allora, che cosa succede quando qualcuno si sente male, ha qualche linea di febbre, ha bisogno di un medico, si sente dei sintomi, che cosa viene messo in atto? Allora, diciamo che la cosa più importante innanzitutto è che ci venga segnalato, nel senso che appena uno non si sente bene, si sente un po' di febbre, sente qualche sintomo anche alla gola, insomma, legato alla respirazione, della tosse, che lo venga subito a dire, che non si autocuri in alcun modo, anche perché il prima viene fatto la segnalazione, il prima si mette in sicurezza anche tutte le persone che ci sono intorno, oltre che la persona stessa, ovviamente, perché anche autocurarsi o tenere nascosti i sintomi può essere pericoloso, perché il decorso ovviamente non si sa quale possa essere, di qualsiasi malattia si stia trattando. In questo caso è ancora più importante che ci venga detto. Dopo chiaramente viene fatta una valutazione da parte del medico della situazione della persona, e se viene valutato che effettivamente il rischio è quello che sia coronavirus, la persona in primis deve essere isolata, come vale anche un po' per fuori, nel senso che bisogna allontanarla dalla comunità a cui appartiene normalmente, e se ha già dei sintomi viene fatto il tampone. E nel caso in cui poi il tampone sia positivo e ci siano, continuano ad essere dei sintomi, la persona viene nel tempo curata, aspettando poi i primi 10 giorni e man mano la scomparsa dei sintomi, e quindi poi i tamponi di controllo, aspettando che si negativizzi, ecco. Certo. Questo è un po' quello che viene fatto. È chiaro che le persone che poi hanno dei sintomi risultano positive, o anche senza sintomi in realtà, ma risultano positive, vengono controllate tutti i giorni, nel senso che viene provata la temperatura, i parametri, come anche la saturazione, che è fondamentale, tutti i giorni, e il medico fa il giro all'interno della sezione dedicata quotidianamente per controllare lo stato di salute di tutti quanti. E fa un po' strano pensare a una quarantena, quindi a un isolamento, all'interno di una struttura che di per sé nasce per isolare gli individui, no? E quindi volevo chiederti, proprio a livello organizzativo, come funziona l'isolamento, quindi la quarantena, delle persone affette da Covid? Allora, noi nel tempo ci siamo organizzati, anche insieme all'amministrazione penitenziaria, ovviamente dedicando una sezione specifica alle persone comunque che nel tempo risultano positive. Questo è un po' l'organizzazione di base, per cui le persone vengono messe lì e devono passare lì il tempo finché sono, comunque continuano a rimanere positive. Poi dipende molto dalle situazioni, nel senso che può anche succedere che magari un'intera sezione venga isolata dalle altre, come si fa con le scuole, no? Le famose classi bolla, ecco. Quindi anziché prendere tutti quanti e metterli in isolamento, per un periodo si isola quella sezione lì e viene fatto questo tipo di valutazione. Ho capito. Bene, ci hai detto tante cose importanti, forse è bene ricordare la prima: è un momento abbastanza tranquillo, e nei momenti in cui si è tranquilli ricordiamoci di guardarci alle spalle, cioè di fare veramente tanta tanta attenzione. Esattamente. Bene, è il momento di lanciare l'ultimo brano musicale di oggi, e siccome abbiamo parlato di cura dell'altro, cura di se stessi, io lancerei questo brano di Max Gazzè, secondo me lo conosci, si chiama Mentre dormi, e subito sì. Dopo aggiunge Ti proteggo. Musica. Ciao Agnese, alla prossima. Ciao, grazie. Mentre dormi ti proteggo e ti sfioro. Respiro e ti trattengo per averti per sempre, oltre il tempo di questo momento. Arrivo in fondo ai tuoi occhi quando mi abbracci e sorridi, se mi stringi forte fino a ricambiarmi l'anima. Questa notte senza luna adesso vola, tra coriandoli di cielo e manciati di spuma di mare, adesso vola. tre piume di stelle sopra il monte più alto del mondo, a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. Tu che sei nei miei giorni, certezza, emozione, nell'incanto di tutti i silenzi che gridano vita, sei il canto che libera gioia, sei il rifugio, la passione. Con speranza e devozione io ti vado a celebrare come un prete sull'altare. Io ti voglio celebrare come un prete sull'altare questa notte ancora. Manciati di spuma di mare, adesso vola. Le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo, a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. Sta arrivando il mattino, stammi ancora. Sta piovendo e non ti vuoi svegliare, resta ancora, resta per favore. E dopo il volto che avete appena visto, ascoltato la nostra Agnese Drusiani dell'equipe sanitaria del carcere, colgo l'occasione per ringraziare veramente tanto per quello che state facendo, sta facendo l'equipe sanitaria in questo momento e tutti coloro che li stanno aiutando. E vi ricordo di iscriverci liberidentro.doradio@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40 136 Bologna, ore 17, l'appuntamento è sempre di nuovo con l'equipe sanitaria del carcere su Teletricolore, canale 636. Ringrazio Matteo Parisini, il nostro tecnico, per senza il quale non saremo qui a fare le puntate, Marco Santarelli, ospite in puntata, e Ignazio Di Francesco, e noi ci rivediamo sempre qui, sempre domani, su Liberi Dentro, ore 10:30. Buona giornata a tutti.